Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. 16.36, la voce dell'innovazione, anzi la voce dei ricercatori. Oggi dedichiamo tutta la puntata, che sta in università, nei laboratori, a chi studia, a chi combatte anche all'interno degli Atenei, questa strana popolazione che si racconta spesso ma non si racconta, ma non si fa mai parlare, diciamo, perché di solito è molto viene tirata fuori solo nel momento in cui hanno qualcosa o si lamentano. Noi invece abbiamo trovato un pretesto abbastanza curioso, che ci racconta Giampaolo Colletti. Buongiorno. Buon pomeriggio. Qual è il pretesto per cui parliamo di ricerca e di ricercatori? Ti direi subito RITA 101, e poi adesso ti spiegherò cos'è una grande diretta a rete unificata sulle micro web TV che tanto sono cresciute grazie anche a Nova 24, in occasione del compleanno, i 101 anni. Quindi, di RITA Levi Montalcini. La parola d'ordine è RITA 101. Noi prima diamo la linea alle news e poi spieghiamo che cos'è RITA 101. Come al solito, lo sappiamo soltanto oggi. Un cyberattacco contro Google sarebbe riuscito, a dicembre, a penetrare il sistema di gestione password, usato ogni giorno da milioni di persone in tutto il mondo, per avere accesso a quasi tutti i servizi online della società. La notizia è stata diffusa dal New York Times, che cita una persona direttamente coinvolta nelle indagini sulla vicenda. Nonostante l'attacco, secondo il giornale non sembra che gli intrusi abbiano sottratto delle password di utenti Gmail. Google avrebbe comunque subito rinforzato i sistemi di sicurezza. La casa francese, produttrice e distributrice di videogiochi Ubisoft, eliminerà i manuali cartacei da tutti i suoi titoli per PC, PlayStation 3 e Xbox 360, sostituendoli con versioni elettroniche. L'editore videoludico ha così motivato la sua scelta. La produzione di una tonnellata di carta destinata alla realizzazione dei manuali cartacei consuma una media di 2 tonnellate di legname, circa 13 alberi, per un dispendio di energia netta equivalente al consumo medio di riscaldamento di una casa per un anno intero. Metà aggregatore, metà editore di blog. È online Il Post, un nuovo giornale web fondato e diretto da Luca Sofri. Da Nova Lab 24, un in bocca al lupo alla redazione. RITA 101 è l'omaggio della rete a Rita Levi Montalcini e al suo 101esimo compleanno. Trattasi di una diretta online a rete unificata che andrà online giovedì 22 aprile dalle ore 21 sulle micro web TV italiane, sulle web TV e web radio universitarie, sui micro media iperlocali e sui blog e videoblog. Ad oggi hanno aderito oltre 150 piattaforme. Altre continuano ad iscriversi e potranno farlo fino a poche ore prima della diretta su www.rita101.tv. Allora Giampaolo, a che punto siete arrivati con questa diretta reti unificate? Beh, straordinario, siamo arrivati a 176 piattaforme iscritte che trasmetteranno a rete unificata giovedì 22 alle 21 questa maratona di auguri per i 101 anni di Rita Levi Montalcini, per raccontare le storie delle altre rite all'italiana, ecco. Che tra l'altro infatti non sarà solo un momento per fare gli auguri, ma sarà anche probabilmente un momento per fare il punto sulla ricerca. Tu oggi hai portato qui in redazione 4 storie da Siracusa a Trieste, insomma, 4 storie di ricercatori. Sì, 4 storie delle oltre 50 che racconteremo nel corso della diretta, e in diretta ci collegheremo con 12 gruppi d'ascolto, diverse università anche negli Stati Uniti, per capire a che punto è la ricerca italiana e dei tanti ricercatori che invece hanno scelto di operare all'estero. Allora partiamo subito, andiamo a Siracusa dove c'è Rachele Castro in collegamento. Buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, siete tantissimi, mi sembra di capire. Vi state preparando giovedì e insomma, che secondo te, tu tra l'altro sei una ricercatrice di scienza applicata, cioè ti occupi di monitoraggio integrato ambientale ed energetico tramite biosensori. Prima ci spieghi che lavoro fai e poi vediamo di capire quello che potrà succedere giovedì. Allora, io sono, diciamo, la portavoce di un gruppo di ricerca che ha catturato menti sia all'interno dell'università, ma sia anche ricercatori autonomi che si autofinanziano grazie anche ad aziende che hanno costituito. Io infatti, diciamo, sono sia ricercatrice sia imprenditrice, perché per autofinanziarmi la ricerca ho costituito un'azienda. Tutti assieme abbiamo costruito questa sorta di laboratorio dislocato nel quale appunto cerchiamo di occuparci di tutte quelle che sono le tematiche ambientali con l'ausilio di nuovissime tecnologie. Infatti No, la critica che di solito, ma non è il tuo caso, che viene mossa ai ricercatori, è quello di vivere forse in un mondo ovattato, forse alle volte troppo distante da quello della produzione. Non mi sembra che sia la tua storia. No, non lo è affatto, però a difesa delle persone che vengono accusate di vivere in un mondo ovattato, diciamo che la ricerca pura, fine a se stessa, non viene quasi mai finanziata, salvo in casi particolarissimi. Quindi molto spesso, possibilmente sì, vivono i ricercatori in una condizione di, chiamiamola, clausura, però di contro alla fine producono sempre qualcosa che verrà applicato nel mercato, perché molto spesso capital investor, ma anche i finanziamenti stessi, hanno lo scopo di far ultimare tutta una serie di studi che poi permettono immediatamente di mettere nel mercato prodotti, o perlomeno questa è la tendenza. Rachele, qual è il messaggio forte che lancerete giovedì e che possiamo anticipare? Il messaggio forte è che abbiamo bisogno veramente di sostegno per continuare quelli che sono gli studi di ricerca, e questi tutti, che la ricerca non è soltanto una sorta di cosa filosofica fine a se stessa, ma è importantissima, soprattutto in questo periodo dove si nota sempre di più quanto le nostre interazioni con quello che è lo spazio che occupiamo, con quelle che sono le altre specie con le quali noi condividiamo il pianeta Terra, hanno impatti mostruosi, veramente. Quindi il messaggio forte è: per favore, credete nella ricerca, continuate a finanziare quella che è la ricerca, soprattutto oggi che abbiamo modo di leggere veramente tutti quelli che sono stati gli impatti negativi delle nostre azioni nell'ambiente. Posso passare la parola a Marco Morante, che invece ci chiama dall'Aquila. Buongiorno. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, anzi io dico sempre buongiorno a buon pomeriggio. Cos'è Collettivo 99? Beh, un gruppo, Collettivo 99 Giovani Tecnici Aquilani, è un gruppo di interdisciplinare che si è formato all'indomani del terremoto e che sta cercando dalle ultime settimane di aprile, quindi all'indomani del terremoto, di condurre e di creare un dibattito su quello che deve essere la ricostruzione, e che nel nostro caso con uno slogan è diventata riconversione oltre a ricostruzione. Non è politica, no? Non fate politica. Assolutamente no. Assolutamente no. No, anche se in alcuni casi occuparsi della cosa pubblica è politica in senso alto del termine. Ah, beh, guarda. Veramente non è partitica, ma è occuparsi della cosa comune. Quindi guarda, per questa trasmissione politica sono le scelte che si compiono tutti i giorni. Nova Lab 24. Gianpaolo, mi sembra di capire che avrai in mano giovedì una patata bollentissima. Sì, e tra l'altro con tanti collegamenti in webcam via Skype per un esperimento, Luca, che è il primo in assoluto a trasmettere a rete unificata sulle micro web TV una diretta legata ai temi della ricerca. Però dalle storie di Marco e di Rachele emerge questo tratto forte della concretezza della ricerca, cioè nei loro laboratori in realtà si fa qualcosa per cambiare lo stato delle cose in concreto, quindi la ricerca non è più qualcosa di astratto, ma davvero che può cambiare la vita di tutti i giorni. Ma io volevo tornare solo un secondo con Marco Morante, anche perché credo che quella di giovedì sarà anche l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ma noi cerchiamo di essere propositivi di occasioni anche per togliersi i sassolini dalle scarpe, ce ne sono stati, ma cerchiamo sempre di evitare polemiche, cioè di evitare. Certo è che la ricostruzione è un qualcosa di molto difficile e complesso, è un qualcosa che è oggetto, deve essere oggetto di ricerca. Non basta fare, occorre fare bene, ci sono competenze e ci sono saperi in Italia e all'Aquila, utilizziamole. Ecco, dall'Aquila proviamo ad andare a Copenaghen, dove siamo in collegamento con Alessandra Mosca. Buon pomeriggio. E buon pomeriggio a tutti. La sua purtroppo è un luogo, la storia di un luogo comune, cioè del cervello fuggito all'estero. Sì, è abbastanza comune, non c'è in realtà un laboratorio di ricerca all'estero in cui non ci sia un italiano. Sì, e questo è una cosa che ci rende tutti orgogliosi. Sì, sarebbe molto bello avere l'opportunità poi di poter tornare. Tu parli nella tua scheda, tra l'altro, di io sarei disposta a tornare, però con una paga adeguata. Ci dai due numeri per capire un po' di che cosa stiamo, di che cifre stiamo parlando? Perché sono state sempre fatte, poi sono state criticate, poi qualcuno le smentisce, sì, però sono mestieri che durano tutta la vita, tempo indeterminato. Ma assolutamente non è vero, perché i fondi di ricerca sono quelli che guidano questi progetti, e io parlo di cifre di, sono un ingegnere, quindi do numeri, 3.000 euro netti per un ricercatore junior. Ammazza. Secondo me è importante parlare di cose pratiche anche per quanto riguarda la ricerca, ed è è importante che si faccia una giusta informazione. Sono molto d'accordo con quello che ha detto Rachele sull'importanza di dover credere nella ricerca, ma anche di dare dei riferimenti reali rispetto al problema. Gianpaolo. Guarda, in realtà quello che traspare dai nostri ricercatori all'estero, noi ci collegheremo giovedì con Israele, con gli Stati Uniti, con l'Australia, è l'orgoglio dell'italianità di essere ricercatori italiani, però anche il disagio di operare all'estero e di non aver avuto l'opportunità di operare in terra natale. Questo è un po' anche questa doppia anima emergerà anche dalla puntata di giovedì, lo stiamo vedendo nelle schede. Alessandra Mosca, di che cosa ti occupi tu esattamente? Allora, io sono ricercatrice in scienze di materiali e nanotecnologie, lavoro allo sviluppo di compositi per applicazioni automobilistiche e aerospaziali. Ecco, c'è qualcosa di simile qui da noi? Cioè il passaggio è, perché poi sai, le nanotecnologie, noi ne abbiamo parlato spesso a Nova Lab 24, insomma sono la grande promessa dell'Europa, però poi si sta vedendo ancora poco, però resta la grande promessa, soprattutto in termini di finanziamento alla ricerca. Ma in Italia non ci sono alcuni centri privati come il centro ricerche Fiat, per esempio, che stanno lavorando bene di nanotecnologie, mentre dal punto di vista di pubblico privato, università, cioè tu non sapresti dove tornare, cioè se tornare o dove tornare, non hai nel mirino un centro di eccellenza dove... No, non ce l'ho, e onestamente non mi sento pronta per tornare in Italia. Questo è interessante. In che senso non ti senti pronta? Non mi sento pronta perché ho potuto constatare durante i miei tentativi di poter tornare che la mia professionalità non è accettata, non è riconosciuta, perché c'è poca informazione su cosa significa fare il ricercatore. Ma non è tutta colpa nostra, però, o sì? Tutta colpa nostra, intendono nostra dei giornalisti che proviamo a... No, assolutamente, io non sto assolutamente lanciando... Coda di paglia che abbiamo, basta un attimo. Ci si infiamma. No, non è quello, ma è anche secondo me nel ruolo delle università, perché nelle nostre università spesso non si parla di ricerca, non si incentiva i giovani ad avvicinarsi alla ricerca, e soprattutto perché non ci sono i fondi e c'è questa diffusa credenza che il ricercatore viva in un mondo tutto suo. Quindi insomma, Gianpaolo, mi sembra di capire che sarà, o almeno vorrà essere, una giornata in cui si prova un po' a spazzare via il campo dai luoghi comuni. Magari anche mondi molto, molto diversi. In realtà poi l'obiettivo non è soltanto fare gli auguri alla grande Rita di Montalcini, ma anche promuovere la raccolta fondi per incentivare il 5 per 1000 per la fondazione della Montalcini. Quindi c'è anche questa idea che troneggia insomma in tutta la serata di dopodomani. Tra l'altro la cosa che mi colpisce molto legata a queste storie, che Montalcini spesso lo racconta, è che lei ha iniziato facendo ricerca nei laboratori casalinghi, a casa, nella camera da letto. appunto durante l'epoca delle leggi razziali. In queste storie di rite all'italiana nel mondo abbiamo riscontrato anche proprio questo lavoro quotidiano, spesso in laboratori anche così angusti, in spazi fisici rimediati, però la voglia di fare ricerca, questa sete di conoscenza. Ecco Giampaolo, io ti ringrazio, ringrazio tutti i ricercatori che sono intervenuti, bocca al lupo per giovedì. Tra l'altro noi ci risentiamo domani perché torni con i WW Workers, per cui racconteremo altre storie di altre persone. L'appuntamento è domani alle 16.30, ciao a tutti. Clicca linear.it ed entra nella tribù. Linear, assicurazioni in linea con te. Vi ha presentato Nova Lab 24.